4 mattino. La Gran Bretagna va via dall'Europa, la Catalogna vuole andare via dalla Spagna, la Crimea vuole andare via dall'Ucraina. I movimenti indipendentisti stanno crescendo ovunque. Ci sono gruppi indipendentisti in Boemia, in Frisia, in Galizia, in Gagauzia. Gagauzia. Che cazzo è la Gagauzia? È la terra di Lady Gaga. Avete immaginato un'interrogazione in geografia con un'Europa così? Cazzo, lei inizia in prima liceo e finisce in quinta. Vabbè, geniale. Geniale, grande Crozza, però non si sta scherzando. Madrid arresta i leader catalani, dalla piazza indipendentista arriva la sfida e la foto che campeggia sulle pagine dei giornali è quella di due uomini con la barba e sono Quixart e Jordi Sánchez che salutano con il pugno e battendo le mani mentre vanno, scivolano verso questo arresto. E allora basta il pezzo di Francesco Olivo sul quotidiano piemontese per darci l'idea. Se tra Spagna e Catalogna la politica resta immobile, la magistratura si muove come galera per i due leader della società civile indipendentista, libertà condizionata per il capo dei Mossos di Esquadra. Il maggiore della polizia autonoma, Josep Luis Trapero, considerato un eroe in Catalogna, è accusato, racconta Olivo sulla stampa, di sedizione per aver assunto un ruolo nella strategia indipendentista del governo catalano. La procura aveva chiesto l'arresto, ma la magistrata Carmen Lamela è stata più morbida. E allora è l'ennesima tappa di questa telenovela che ci dice quanto sarà lunga, serrata, legale, mediatica questa battaglia fra gli indipendentisti, i secessionisti e lo Stato centrale spagnolo. E ovviamente, questo è il retrogusto vero della battuta di Crozza, si parla della Spagna ma si discute di tutta l'Europa. Allora vediamo la panoramica rapida sui titoli. Repubblica, stop del governo, non si cambia, pensione a 67 anni. Dal 2019 Gentiloni gela i sindacati, sgravi perché assume gli under 35. La Stampa, giovani e bonus, ecco la manovra, doppio sgravio fino a 35 anni, detrazione per giardini e terrazzi, pensate, assunti 1500 ricercatori. Il Sole 24 Ore con le sue 6 pagine, cuneo, IVA, industria 4.0, manovra da 20.4 miliardi. Gentiloni Padoan, snella ma efficace, boccia bene il bonus agli under 35. Sì del Consiglio dei Ministri alla legge di bilancio 2018, sto leggendo sempre il Sole. Stop ad addizionali regionali e locali, credito d'imposta per il verde, sconto per investimenti al sud. L'editoriale di Giorgio Santilli per i giovani, risorse limitate e da difendere. La Verità, ovviamente è un'apertura diversa su cui forse discuteremo con Oscar. Aboliscono i contanti, ecco chi ci guadagna. L'obbligo di accettare la carta di credito anche per i caffè penalizza i commercianti. Gioiscono i produttori delle macchinette POS, le banche che lucrano sulle commissioni, le casse dello Stato. L'uso di denaro elettronico infatti aumenta gli incassi dell'IVA. Ma questo non è sbagliato. Fondo di Maurizio Belpietro, altro che razzismo, l'immigrato che vuole tassare i migranti. C'è un immigrato, dice, che vuole tassare gli immigranti, giuro, e non lo dico e non lo dice per paura, perché pensa che i nuovi venuti portino via qualcosa anche a lui. E il Giornale, primo, non rubare, emergenza sicurezza, apertura diversa, quindi come vediamo. L'avvocato che ha ucciso il ladro rischia la cella, ma il cattivo non è lui. E due keniani cercano di rapire tre bimbi all'oratorio. Il fondo di Alessandro Sallusti su questo, come di consuetudine nel Giornale. Il foglio è l'apertura, lo stupro è una cosa, ma la polizia del quotidiano per legge è una minaccia e la delazione della miseria sessuale degli altri è un assurdo. Giuliano Ferrara interviene sulla vicenda di cui stiamo discutendo da giorni con il problema serio della, diciamo così, delazione. Avvenire. un patto mondiale per le migrazioni, il Papa alla FAO, la fame si vince con il no alle guerre. E Francesco rammaricato per la rinuncia di alcuni paesi a fermare i cambiamenti climatici, sia al progetto ONU sugli spostamenti delle persone. Il fondo, la svolta vista e chiesta dal Papa con parole e opere di Marco Impagliazzo. Il Tempo, avvocato difensore, indagato illegale che ha ucciso un ladro. Vedete, sia il Tempo sia il giornale, i quotidiani, diciamo così, di centrodestra, indagano la vicenda di Latina. Nei guai il professionista che ha protetto la casa del padre dai malviventi. Le vittime di altri episodi simili sono tutte dalla sua parte. Anche noi, scrive Gianmarco Chiocci, stiamo con lui. E il Corriere della Sera, sgravi fiscali per chi assume giovani, l'apertura. La Spagna scopre le alleanze, il fondo di Aldo Cazzullo. Il Messaggero, pensioni statali, ecco le novità. Varata la manovra, resta l'aumento dell'età pensionabile a 67 anni, ma per le donne l'uscita anticipata sarà agevolata, dopo vi spiegherò perché. Trattenere i tributi al nord, questa è una cosa interessante del Messaggero di oggi, che attacca il referendum di Lombardia e Veneto con un fondo di Gianfranco Viesti. Contesta sia le cifre sul cosiddetto residuo fiscale e sia le scelte che il referendum comporterebbe. Impariamo dall'Austria, Libero. Basta immigrazione, via gli islamici. E il doppio parere, il versus che ogni tanto, come sapete, si accende sulle pagine di Libero. Solo noi in balia dei comunisti, Vittorio Feltri magari, ma per poco l'aria è cambiata pure qui di Carioti. Poi le due aperture dei quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport, Icardi, che figu, e c'è la figurina di Icardi, il nuovo eroe dell'Inter, con i suoi gol, e poi il Corriere dello Sport, che incoraggia la Roma, senza paura, Dzeko, Fazio e Kolarov hanno già battuto il Chelsea, sì, perché iniziano le grandi sfide europee, prima City-Napoli, e poi domani, come sapete, la Roma e le altre squadre di Champions. Allora, stiamo parlando quindi di tante cose. Mancano due aperture importanti. Il Giorno, Trump all'angolo, quella complicazione che vi dicevo, che porta alcune ex partecipanti al suo show a denunciarlo per molestie sulla scia del caso Weidman. E poi l'apertura del Fatto Quotidiano, che è tutta contro la Rai. Fazio, le due parodi affondano la Rai e Orfeo ignora Milena Gabanelli. Allora, come vedete, ce n'è per discutere molto a lungo, ancora qualcosa di importante che riguarda le interviste. Allora, parla Silvio Berlusconi, una doppia pagina al Corriere della Sera, tutta da leggere. Vi do, come dire, lo strillo di anticipo, perché in questo momento si tratta sicuramente di un posizionamento cruciale. Pagina 8 e 9, pensate. Niente larghe intese, resto in campo, vinciamo e indichiamo il Premier. Ecco il patto con Salvini. Poi dentro questo, mentre esplode la possibilità di coalizione centrosinistra perché molti si sono sfilati, Berlusconi svela il patto di convivenza che ha stipulato con il leader della Lega. Salvini è irruente all'esterno, è quello il suo stile, il suo modo di conquistare consensi, ma quando ci sediamo intorno a un tavolo, dice Berlusconi intervistato da Marco Galluzzo, è un interlocutore serio, ragionevole. Con lui siamo d'accordo sul fatto che la forza politica del centrodestra che prenderà più voti sarà quella che indicherà il capo dello Stato, al capo dello Stato, il nome del Premier per l'intera coalizione. Io non ho alcun dubbio, dice Berlusconi al Corriere della Sera, sul fatto che quel nome lo dovremmo indicare noi. Stiamo valutando diverse figure, ma naturalmente non ne nominerò nessuna, visto il polverone mediatico che si era sollevato quando in passato avevo citato qualche nome solo a titolo di esempio. E si riferisce a Marchionne. Allora entriamo oggi in una pagina meno politica, tanta cronaca, ci sono i fatti di Latina, c'è il problema grosso di Asia Argento, di cui parleremo, di Trump, di Weidman, di Clinton, ma ci fermiamo per il meteo. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. State ascoltando un programma offerto da Dottor J e Mister I. Trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Mattino. Luca Telese, 7:34 minuti, 47 secondi. E allora andiamo subito al cuore della manovra con luci e ombre, critiche e complimenti. E una manovra da 20 miliardi, subito i dati così riassunti al volo nel pezzo di Roberto Petrini. Una valanga di bonus, scrive su Repubblica il giornalista economico, tra conferme e novità. Rinnovato il cultura, il bonus cultura per i giovani, arriva quello per le mamme atlete, si aggiunge il bonus verde, il 36% per la cura dei giardini privati. Tornano anche l'eco bonus e il sisma bonus per le case popolari. È tutto un bonus. Risorse in movimento per 20,4 miliardi, ancora Petrini su Repubblica, di cui 10 vengono dall'aumento del deficit grazie allo sconto dell'Europa e 10 da tagli, circa il 40%, e nuove entrate, circa il 60%. Ma di queste risorse, 15,7 miliardi sono destinati a evitare l'aumento dell'IVA a garanzia di precedenti impegni di spesa e solo 3,8 miliardi sono usati per spingere l'economia. Ecco, questo forse è il punto che accomuna tutti i giornali, e la considerazione di quanta parte di questa manovra è assorbita solo dal contenimento delle cosiddette clausole di salvaguardia. Il focus, il fondo del Sole 24 Ore di Giorgio Santilli entra su un altro aspetto cruciale, quello dei giovani. La legge di bilancio snella varata ieri, 20,4 miliardi lordi per il 2018, di cui 15,7 se vanno per evitare gli aumenti dell'IVA e altri 2 per il rinnovo del contratto degli statali, evita lacrime e sangue e continua il sentiero stretto degli ultimi anni con alcune novità importanti ma senza impennate. È in fondo una legge che sceglie il rigore ma non fa ricorso a misure shock pur necessarie. Un profilo moderato, scrive il Sole, che non si riscontra nelle ambizioni del governo, certo di rafforzare la crescita e di stabilizzare i conti con questa manovra. Piuttosto, nel modo in cui la legge si presenta in Parlamento, il profilo moderato potrebbe garantire al governo un percorso meno accidentato in una turbolenta fase preelettorale. Questo è il senso della manovra. E poi ovviamente c'è il problema delle pensioni. I nati del 52 bloccati al lavoro con l'aumento della speranza di vita, Valentina Conte su Repubblica, circa 60.000 persone dovranno restare più a lungo in attività. L'età per andare in pensione salirà dal 2019 in poi. Nessuna trattativa, nessuno slittamento, nessuna deroga da parte del governo. Rispettiamo la legge in vigore, annunciato ieri il premier Gentiloni, spegnendo ogni speranza dei sindacati, malpancisti, interni ed esterni al PD. Quando dunque l'Istat entro l'anno comunicherà il nuovo dato sulla speranza di vita, quanti anni ancora restano a vivere in media arrivati a 65 anni, l'adeguamento per la pensione vecchiaia sarà automatico. Si uscirà non più a 66 anni e 7 mesi come ora, ma forse a 67 tondi tondi. E questo è un altro, come dire, dei nodi della manovra che non lasciano scampo, produrrà molti, come dire, polemiche e qualche cambio di stile di vita. I conti in tasca alla manovra, il Corriere della Sera, pagina 2 e 3, contributi dimezzati per i neoassunti fino a 34 anni, cosa che Confindustria apprezza con le parole di Boccia, per gli statali ritocco di 85 euro. Ma se volete veramente tutto, sapete che sul Sole ci sono 6 pagine che passano allo scanner questi provvedimenti e c'è veramente tutto. Bonus giovani 100%, Sud Net, decontribuzione per 3 anni al 50% per tutti gli altri e l'apertura del Sole a pagina 5 con un tetto di 3.000 euro a dipendente. E poi c'è un altro focus del Sole, Davide Colombo, pagina 5, il governo chiude sull'età pensionabile e si spiega anche cosa accade per le donne, dove rispunta, ricordate, ne parlavamo con Oscar, quella questione dello sconto, il bonus previdenziale per le donne, vedrete a che condizione e come. Allora, La politica, vi dicevo che c'è, mentre il centrodestra con l'intervista di Berlusconi sembra quadrare i ranghi, il borsino del centrosinistra oggi è abbastanza calante. Intanto c'è l'aiuto di Verdini, pagina 9, Carmelo Lo Papa: noi voteremo sì alla fiducia, e questa è una cosa che un po' inguaia il PD. E poi ci sono gli echi della festa non proprio felice del Partito Democratico. Una cosa positiva: parte Destinazione Italia, il treno di Renzi, però Prodi si tiene lontano del PD, no al convegno europeista che lancerà una lista alleata. È lo scenario di Goffredo De Marchis. E poi c'è l'ammonimento di Veltroni, pagina 11, Repubblica: serve un'intesa con MDP, cioè con i bersagnani e con la sinistra, pressing democratico sull'ex leader sarà in campo alle elezioni. Cioè vogliono candidare Veltroni, e Veltroni però vuole che si alleino con MDP. Lo stesso retroscena Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. E qui chiuderei la pagina politica aggiungendo solo che si va verso la fiducia sulla legge elettorale. Il Corriere, pagina 9, in parte ve l'ho annunciato con quel titolo su Verdini, e che c'è una piccola disputa su un errore materiale che era stato fatto nella legge alla Camera, lo leggo dal Fatto, in cui c'era due articoli che dicevano due cose diverse. Sarebbe stato necessario tornare quindi alla Camera, visto che il Senato avrebbe dovuto modificare questo articolo, ma la Boldrini lo ha corretto come se fosse un errore formale. Sono insorti i 5 Stelle. Allora, il Messaggero parla di Latina e ci sono due punti assolutamente opposti, se vediamo i due quotidiani romani, di vedere la vicenda dell'avvocato che ha sparato. Latina riapre il caso della legittima difesa. Il Messaggero si è difeso dicendo di aver sparato in aria e di non essersi accorto, Marco Cusumano e Giovanni Del Ghiaccio sul Messaggero, di aver colpito mortalmente uno dei ladri entrato in casa del padre. Ora deve rispondere dell'accusa di omicidio volontario l'avvocato Francesco Palumbo, civilista, 47 anni, di Latina. Il Messaggero quindi è molto attento su questa ipotesi e considera l'inchiesta legittima. Paolo Graldi: quella legge resta una priorità. E leggo l'apertura: si riaccende la polemica sulla legge che delimita i casi in cui invocare la legittima difesa. Pagina 22, Il Messaggero. Invece Il Tempo, come vi ho detto, è Libero: avvocato difensore, e Gianmarco Chiocci difende l'avvocato che ha sparato a Latina. Giro a voi la domanda, si chiede il direttore del Tempo, che faccio a me stesso ogni volta mi ritrovo a trattare la notizia di un povero Cristo che spara al ladro sorpreso in casa. Come vi comportereste se un bel giorno, nel pieno della notte, un balordo spuntasse in salotto e nella camera dei vostri figli? Riuscireste a restare freddi, lucidi e razionali come metà del popolo webete va cianciando, oppure reagireste sparando, mulinando la prima cosa trovata intorno e picchiando pure le ombre? Questo è la domanda delle domande. Ovviamente Chiocci si risponde sì, l'eccesso colposo di legittima difesa, il reato ipotizzato in questo caso, non esiste. Allora, da Libero un sondaggio che sta un po' preoccupando, insieme a quello delle regionali siciliane, la politica in questi giorni, e cioè un dato che sarebbe clamoroso se si verificasse: un sondaggio che dice che a Ostia Casa Pound, pagina 5, no, pagina 6, che Casa Pound è indicata come seconda o terza forza con il 10%, grande frammentazione, e ha un'incollatura, pensate, dal Partito Democratico. Se accadesse sarebbe un vento austriaco che soffia sull'Italia. E una curiosità dal Messaggero: le nuove mode, nuovi stili di vita, basta lavarsi. E a pagina 17 è la nuova moda: lavarsi fa male, non è chic, l'ultima moda da Londra, ma fa anche male secondo loro alla salute. Cristina Marconi, l'icona dell'eleganza, Vivienne Westwood, lancia la tendenza: il sapone, dice, rovina la pelle. Arriva, no, questa è clamorosa, lo spray per spruzzarsi i batteri che nutrono l'epidermide. Sono come fermenti lattici, fanno bene. E i ribelli della doccia, c'è lo scrittore Mauro Corona, c'è la stilista appunto che citavo, c'è il conduttore Giuseppe Cruciani, conoscete le sue battaglie, e anche Matthew McConaughey, l'attore. Ecco, questi sono nel mondo i riferimenti della nuova tendenza. E Ase Argento è tutto quello che si trascina. Su Corriere a pagina 1 c'è il fondo di Gramellini, che però vi leggo subito dopo le strade in diretta. Ciao papà, sei obeso. Mattino 7:46, 36 secondi, Luca Telese. E allora, grande raffica di notizie che arriverà fra poco, ma ancora alcune segnalazioni importanti. Allora, la polemica sui referendum aperta dal Messaggero stamattina, vi dicevo, Gianfranco Viesti sulla prima pagina del Messaggero contesta il calcolo del residuo fiscale e dentro rincara la dose un'intervista a Giuseppe Roma, ex direttore del Censis, che a Marco Ventura dice: Lombardia e Veneto sono pompe idrovore cresciute con i fondi dello Stato, e fa degli esempi. L'Expo è stato un grande investimento dello Stato italiano, la metro di Milano è adeguata a una città civile ma nasce totalmente dai contributi statali. Malpensa, ancora Giuseppe Roma, quanti soldi ha assorbito senza alcun effetto? Non c'è un po' di colpa per la crisi dell'Italia nel aver puntato su questo hub? E poi le pensioni di anzianità, sempre Roma, sono distribuite per la maggior parte al centro-nord. Vai, fuoco per la polemica, se volete commentare 349-238-6666. E vi dicevo ancora di Ase Argento. Allora, la prima pagina del Corriere della Sera con il fondo di Gramellini su questa vicenda, e medaglia d'argento in cui sostanzialmente difende Asia, ma con questa argomentazione: il modo in cui le donne ha reagito alla prevaricazione è affare che riguarda il tribunale della sua coscienza, mentre l'atteggiamento del prevaricatore riguarda tutti. Il caso Weinstein. Intervista di Dario, il papà di Asia, come sapete famosissimo regista, su Il Corriere della Sera, e difende Asia dicendo: sono lontano, non la sento, ma sto dalla sua parte. Quindi incredibile trama familiare. Mentre a pagina 17 vi dicevo della vicenda di Trump, io le respingevo, lui mi baciava. L'ex di Apprentice accusa Trump, si chiama Summer Zervos e chiama in causa il presidente degli Stati Uniti. E Clinton, anche lui tirato dentro da qualche imprecisata accusa, chissà dove finirà questo effetto domino aperto da il caso Weinstein. Cinema marcio, non tutto è così, dice Dario Argento. Allora, cambiamo pagina e andiamo al Money. Tremonti a pagina 21 contro il salvataggio dell'Italia, l'altra notizia di oggi. Ci sono tante offerte, 6, forse 7 in busta, ma tutte richiedono uno spezzatino. E Giulio Tremonti dice: attenzione, perché quella compagnia è per metà araba. Libero, pagina 21. Repubblica, i nati del 52 sulla pensione, il pezzo della legge di Valentina Conte. Il Corriere, pagina 23. E è stato ricostruito, pensate, tutto l'asset patrimoniale di tutti coloro, i dirigenti di Banca Etruria. Fondi, compravendite fittizie, ecco i trucchi dei manager di Etruria. E 520 milioni è l'ammontare del danno subito dai risparmiatori di Banca Etruria, circa 410 milioni, secondo i magistrati, sono stati nascosti con fondi patrimoniali e altre manovre da coloro che facevano parte di quel board per evitare il sequestro. Farà arrabbiare molti, questo è sicuramente è comprensibile. La verità, vi dicevo, la verità apre contro il POS, ecco chi ci guadagna, però una sola cosa nel pezzo di Gianluca Baldini che sicuramente farà discutere e piacerà a molti ascoltatori: la commissione, vedete, del POS è stata fissata a un forchette che va da 0,40 a 0,80, non è una gabella insostenibile, però ovviamente alla verità non piace, spiega Baldini. La strisciata diventa obbligatoria, ci guadagnano solo lo Stato e le banche. Lo Stato però perché sale il gettito dell'IVA, non è che sia un furto, è un tributo dovuto. E all'Italia, pagina 33, ma anche sul Sole, ma anche su Repubblica, il problema delle offerte, e vi leggo proprio succintamente la cosa più importante: salvataggio all'Italia, una partita a 7, Lufthansa ed EasyJet vogliono solo gli aerei e le rotte. Ieri presentate le offerte ai commissari, c'è tempo fino ad aprile per negoziare perché ci si sposterà. E andiamo alla mitragliata. Pomodori, l'oro rosso. Le quotazioni sono alle stelle, il Sole a pagina 17 ci informa: ragazzi, non scherziamo, questo conta più della borsa, che il datterino a Milano è stato battuto 4 euro il chilo, il pachino a 3,20 euro. È un piccolo terremoto che cambia i bilanci anche delle nostre famiglie. Mio padre voleva essere seppellito con la camicia nera. Cangini, il direttore del Resto del Carlino, del Giorno, racconta la vicenda e le ultime volontà di suo padre, che con un passato fascista ha chiesto questa sua ultima volontà. Fazio, canone inverso, secondo Libero e secondo il Fatto Quotidiano, ma basta anche Libero. Ebbene, le due parodi affondano Rai, dice il Quotidiano di Travaglio, perché gli ascolti sono troppo bassi. Male le sorelle di Domenica Inn, 12,3% di share, che tempo fa cala sotto la soglia di sicurezza del 15%. Calano quindi anche i guadagni pubblicitari. A Praga, Babisconi. Ma Berlusconi? No, Babisconi è il miliardario candidato a conquistare la politica dopo Trump, dopo Berlusconi, arriva pure lui e lo chiamano così. In realtà si chiama Babis e lo racconta Andrea Tarquini a pagina 17 su Repubblica. Lo sciopero delle toghe, il Fatto, pagina 6, la giornata dei precari della giustizia, fino a 80 processi per 200 euro lordi. Pensate, per 200 euro lordi. Ma poi due perle, dalla verità, a pagina 23. C'era stato un morto, la mala sanità, in una clinica durante un intervento alla vescica. Gli hanno fatto l'autopsia, ma hanno sbagliato per due volte cadavere. È una vicenda che sembra surreale, sembra uno scherzo, invece è accaduto veramente in Italia. E è una notizia che arriva dalla verità, pagina 23, dove c'è la vera perla della giornata. Assolto un cieco che guida la moto, nessuna truffa, era solo incoscienza. Lo avevano preso per un truffatore, ci racconta Silvia De Paola, perché dichiarava di essere cieco, sulla verità, ma era stato sorpreso più volte in sella a una moto intento a fare volantinaggio nelle strade di Bari Vecchia. La Guardia di Finanza le aveva anche sequestrato 225.000 euro, corrispondenti a 23 anni di pensione percepita dal 90 al 2013. Lui in realtà è riuscito a dimostrare la sua innocenza, è davvero un cieco assoluto, ma soprattutto, come l'ha definito il suo difensore, un irresponsabile. Così, dopo 4 anni di processo, il tribunale di Bari lo ha assolto perché il fatto non sussiste. Il barese Francesco Caringella, 59 anni, gli hanno dovuto restituire i soldi sequestrati, ci racconta la Di Paola. Il giudice ha riconosciuto che l'uomo compie azioni di vita quotidiana a suo rischio e pericolo e ponendo a rischio l'incolumità degli altri, ma non è un truffatore. Ci vediamo per il dibattito dei cani e dei gatti fra poco, Giornale Radio. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di primo mattino c'è anche Oscar Giannino.